Ciurma pirata, trasmettiamo dalla Tana Fiorentina del Wombat, rimbalzati su Radio Spore Bologna, Radio Gamma Genova, Radio Forte Roma e ovviamente in diretta su Radio Wombat. Siamo la dama e il reverendo, oggi due voci nuove per il Radio Giornale, almeno per quanto riguarda me è la prima volta. Vi ricordo subito il pad del Wombat per scriverci, diretta wombat.vado.li per mandare contributi audio o vocali wombat.vado.li. Süpürgesi yoncadan, süpürgesi yoncadan. Partiamo subito, partiamo così a bomba breve con le notizie prima internazionali. Dai, via. E inizierei, visto che ci hanno lasciato una scaletta fitta, assidua e profonda, con le notizie dalla Palestina. Continua l'escalation di violenza del conflitto dimenticato tra popolo palestinese e l'entità sionista. Un palestinese di 21 anni, Ahmed Mazad, della città di Burkina, è stato ucciso e altri tre sono rimasti feriti dalle forze di occupazione israeliane durante la loro invasione del campo profughi di Jenin, all'alba di mercoledì. Martedì Ahmed Ibrahim Keidad, 20 anni, è stato colpito con proiettile alla testa durante un raid dell'esercito israeliano nel campo profughi di Aqab Jabar a sud di Gerico. È morto poche ore dopo. Dall'inizio dell'anno 50 palestinesi sono stati uccisi dai soldati delle forze IOF, 21 dei quali ad aprile. Insomma, un buon numero, purtroppo. Sì, scusate i problemi tecnici, ce la stiamo facendo con calma. Una nuova configurazione tutta da studiare. Ma speriamo che ci stiate sentendo. Brasile. Il presidente, amatissimo presidente brasiliano Jair Bolsonaro, ha concesso l'indulto al deputato federale Daniel Silveira, che mercoledì era stato condannato a quasi 9 anni di carcere dalla Corte Suprema con l'accusa di atti antidemocratici e minacce ai magistrati. Il provvedimento del capo dello Stato, di cui Silveira è alleato, ovviamente mi sembra, ha generato nuove tensioni tra il potere esecutivo e quello giudiziario, oltre a venir criticato dalle opposizioni. Se vuoi proseguo io con Ucraina-Russia. Il 27 aprile il Ministero della Difesa ucraino ha affermato che l'esercito russo ha assunto il controllo di varie località nella regione di Kharkiv e nel Donbass, nell'est dell'Ucraina. Lo stesso giorno Mosca ha sospeso le forniture di gas alla Polonia e alla Bulgaria. Il 26 aprile, nel corso di una riunione con i rappresentanti di circa 40 paesi nella base di Ramstein in Germania, il segretario della difesa statunitense Lloyd Austin ha confermato il sostegno militare incondizionato di Washington all'Ucraina. Sempre restando nella zona, parliamo della Moldavia e della Russia. Il 26 aprile Maia Sandu, il presidente della Moldova, ha annunciato delle misure per rafforzare la sicurezza nel paese dopo una serie di esplosioni nella regione separatista della Transnistria sostenuta da Mosca. Chisinau teme che si tratti di un tentativo di destabilizzare il paese per giustificare un intervento militare russo. Pakistan. Il 26 aprile tre cinesi e un pakistano sono morti quando un'attentatrice suicida si è fatta esplodere vicino all'Istituto Confucio dell'Università di Karachi, nel suo paese. L'attentato è stato rivendicato dai separatisti dell'esercito di liberazione di Belucistan, che si oppongono da anni agli investimenti di Pechino nel paese. Mentre andiamo in Birmania, quando il 27 aprile, quindi oggi, Aung San Suu Kyi, scusate per questa fantastica pronuncia, premio Nobel per la pace, è stata condannata a 5 anni di prigione per corruzione, pena che va ad aggiungersi ai 6 anni già assegnati. L'ex premier di fatto si trova agli arresti domiciliari dal colpo di stato militare del 1 febbraio 2021. Passiamo quindi a Singapore. Un malese di 34 anni con una disabilità intellettiva, Nagarajan Dharmalingam, scusate davvero questi nomi impronunciabili, è stato messo a morte il 27 aprile, nonostante gli appelli alla clemenza provenienti anche dall'estero. L'uomo era stato arrestato nel 2009 dopo essere stato trovato in possesso di una piccola quantità di eroina. Mentre passiamo alla Colombia, dove il 26 aprile 10 militari in pensione hanno riconosciuto, nel corso di un'udienza della giurisdizione speciale per la pace a cui erano presenti familiari delle vittime, di aver partecipato al rapimento e all'omicidio di 120 civili tra il 2007 e il 2008 nel dipartimento di Norte de Santander. Le vittime erano state spacciate per guerriglieri uccisi in combattimento. E ultimo dei nostri aggiornamenti internazionali, passiamo ai nostri amicissimi statunitensi dell'USA. Elon Musk si è comprato Twitter per una cifra intorno ai 44 milioni di dollari, con l'accordo che dovrebbe chiudersi entro il 22. Scusa, 44 miliardi. Quanto miliardi? Madonna. Le leggi da te, vai questa. Mi sembra più sul pezzo. No, che stavo ascoltando Stacca Stacca su Radio Blackout e ne stavamo parlando. E, no, questo accordo dovrebbe chiudersi entro il 2022. E Twitter si appresta quindi a lasciare Wall Street, diventare una società privata, interamente controllata dal miliardario. Vabbè, era già una società privata. Comunque, nelle prime dichiarazioni, il magnate americano ha promesso di voler rendere ancora più democratica la piattaforma di comunicazione, rendendo l'algoritmo che la governa open source, e molte sono le preoccupazioni degli utenti per le sorti del social network. Quindi pare sia scattata la corsa degli utenti verso piattaforme alternative, quindi la principale candidata al momento sembra essere Mastodon, che ha registrato nelle ultime ore un boom di iscritti. Perché come si fa a vivere senza piattaforme dei social network? Yarimi geri sayar aşkına çalan saza Concentriamoci sul nazionale. E via va. Ritorniamo in Italia e partiamo da Roma, la capitale. È finalmente morta Raffaella Stramandolini, detta Assunta, conosciuta come Donna Assunta Almirante, moglie del gerarca fascista e fondatore dell'MSI, è riuscita a campare 100 anni. Non ci mancherà. Buona. Salutiamo i redattori che scrivono queste fantastiche notizie col giusto spirito. Speriamo di renderle col giusto spirito. E passiamo al tema del lavoro. Ricerca del profitto con modalità, termini e proporzioni prevalenti sulla tutela della dignità, della salute e della sicurezza. Diffusione trasversale a molti settori dell'economia. Del delitto di intermediazione illecita di manodopera, sistemi organizzativi che scaricano sui lavoratori e sulla loro pelle i deficit strutturali e organizzativi dell'ambiente di lavoro. Ecco, questo è il quadro emerso dopo un anno di audizioni e sopralluoghi svolti dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza. Quindi un quadro abbastanza drammatico, ma ad attirare l'attenzione è stata soprattutto la stima sull'impatto delle morti bianche, la stima sul PIL che questo impatto, che queste morti hanno. Quindi 400 pagine della relazione intermedia depositata lo scorso 21 aprile sono anche istruttive su molti altri aspetti. Comunque, nei giorni delle polemiche sulla presunta mancanza di manodopera a causa del reddito di cittadinanza, ricordiamo, e sui giovani descritti come scansafatiche, il Senato attesta che lo sfruttamento del lavoro si registra in ogni campo lavorativo, quindi edilizia, sanità, assistenza, case di cura, eccetera, eccetera. Anche nella educativa, giuro. Oh, chissà. Forse è per quello che tutti corrono il reddito di cittadinanza. È meglio il reddito di cittadinanza o essere sfruttati e schiavizzati? Comunque, questo è quello che la Commissione definisce caporalato urbano. E ai danni di un incontrollato bracciantato metropolitano, per lo più straniero, spesso costretto ad accettare qualsiasi condizione di lavoro con retribuzione indegna. Quindi, tanto che i senatori propongono di introdurre nel codice penale una nuova fattispecie di reato nei confronti di chiunque costringe il lavoratore ad accettare trattamenti remunerativi deteriori e non adeguati, e quindi chi obbliga lavoratori a rinunciare a diritti spettanti in relazione al rapporto di lavoro, quali riposi, ferie, permessi, concedi, eccetera. E quindi una descrizione che si applica bene a tante delle storie raccontate dal Fatto Quotidiano, questo secondo me ci è sfuggito, nell'ambito della campagna No al lavoro sottopagato e nella videoinchiesta puntate dello scorso anno sui lavoratori stagionali. Vi consigliamo di andare a vedere questa inchiesta che noi non abbiamo visto. Comunque, la sanzione dovrebbe consistere, secondo la Commissione, nella reclusione da 5 a 8 anni. Quindi, insomma, pare che forse il Senato ha aperto gli occhi, ma ci crediamo fino a un certo punto. Mentre questa inchiesta parlamentare si è focalizzata in particolare sulla logistica, oggetto negli ultimi anni di clamorose inchieste come quelle che hanno coinvolto Ceva Logistics, Uber Italy, eccetera eccetera, e complice il massiccio utilizzo di algoritmi per gestire i tempi di lavoro e massimizzare le performance, il processo di estrazione del profitto del lavoro catalizza la precarietà dell'occupazione attraverso lo sviluppo del fenomeno dell'intermediazione illegale della forza lavoro. Correte, corrieri, correte. E del meccanismo delle finte cooperative. Ma dai. Il sistema è noto, in cui, insomma, il grande gruppo della logistica, solitamente questo grande gruppo, si interfaccia col cliente finale, ma la gestione dei processi è a scendere e le attività vere e proprie sono affidate a fornitori sempre più piccoli, quindi anche sempre più sfruttati e ricattabili. Quindi una catena di appalti e subappalti che finisce per scaricare i costi sugli attori più vulnerabili della filiera, ovvero le piccole cooperative ed imprese di facchinaggio. Quindi un'altra cosa di questo rapporto che dice: c'è anche una tendenziale regressione nelle condizioni contrattuali e salariali degli occupati, è proprio difficile da rivendicare da parte dei sindacati. Quindi, al netto delle lotte del sindacato Sicobas nei magazzini e distretti dell'Emilia Romagna e della Lombardia, che da anni sta portando avanti lotte in questo settore e fatica alla grande. Ma qual è la proposta dei senatori? Vediamo. Somministrazione fraudolenta, prevedendo una pena da 1 a 6 anni se il fatto si accompagna alla situazione di sfruttamento. Bella questa definizione abbastanza generica. Vorrei capire cosa si intende per sfruttamento. E se i lavoratori reclutati sono più di 3, sono coinvolti minori al lavoro svolto, li ha esposti a situazioni di grave pericolo, anche qua grave pericolo, e stabilendo una sanzione nei confronti dell'ente. Insomma, non si capisce un granché. Fatto sta che c'è già un articolo del codice penale che parla di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, e verrebbe inserito un nuovo comma che prevede la reclusione da 1 a 6 anni e la multa da 500 a 1000 euro per ciascun lavoratore reclutato, o multone, 1000 euro, e anche per chi ricorre consapevolmente ai servizi oggetto dello sfruttamento prestati da una persona che è vittima di uno di questi reati. Quindi proprio un bel un bel comma ad ampio spettro. E ovviamente i nuovi reati servono a poco se non si riesce a rafforzare l'attività di controllo, come rileva la Commissione, per ovvi motivi, e sono rarissimo, pressoché inesistenti, le denunce presentate dal lavoratore e dalla lavoratrice oggetto di sfruttamento. Quindi a quanto pare finisce questo nostro trafiletto con un bel grassetto che dice: solo il grande lavoro dei sindacati di base ha permesso di affrontare la questione, lo Stato come sempre arriva in ritardo e deserta i tavoli laddove le istanze sono già aperte ma arrivano dal basso. Quindi speriamo che finalmente qualcuno si svegli, lo speriamo alla grande. Comunque lavorare è un brutto vizio. E questo nostro focus si fa sempre più stretto e arriviamo con un po' di notizie proprio di Firenze e dintorni. Anche Piazza Indipendenza diventerà la piazza di un mega studentato. Ale. Dopo il primo student hotel di Viale Lavagnini e il secondo student hotel di Viale Belfiore, saranno destinati a studenti non certo a buon mercato, perché sennò sarebbe stato chiedere troppo. A studentati, non certo a buon mercato. Due palazzine intere, l'ex clinica Santa Chiara e l'ex Enel, a pochi metri dalla piazza. Vi ricordate quando in mezzo alla pandemia venne detto dall'amministrazione che non sarebbero più stati concessi cambi di destinazione d'uso verso ulteriori strutture turistico-ricettive? Ormai anche i muri hanno capito che la promessa è stata verificata dal trucchetto delle destinazioni direzionali, che sta permettendo di aprire ovunque studentati di lusso. Quindi non più turisti, ma studenti cossori. Bello, perfetto. Va bene, no? Ci mancavano in quel differenza. Assolutamente. Ma la cosa che più colpisce di questa vicenda raccontata da Repubblica Firenze è che dietro il classico sistema delle scatole cinesi c'è l'oligarchia, c'è l'oligarca russo Alexander Abramov, fedelissimo di Putin e magnate dell'acciaio. Nonostante la retorica guerrafondaia, la corsa di riarmo dell'Unione Europea, le forniture delle armi dell'Ucraina contro la Russia, la chiusura a qualsiasi tentativo di pacificazione, le elite mondiali continuano a fare affari sulla nostra pelle. Come ampiamente immaginabile, le sanzioni nei confronti della Russia colpiscono la parte più debole della popolazione e non i super ricchi. A noi propinano la retorica sul gas russo, le sciocchezze sulla scelta tra pace e aria condizionata, mentre loro continuano a fare affari tranquillamente. Repubblica parla di due società controllate da Abramov tramite due trust con sede rispettivamente a Cipro e nelle isole Vergini Britanniche, il paradiso dei paradisi fiscali, e questi due trust avrebbero quote di una società cipriota che controllerebbe le prime due. Wow. Un vero e proprio sistema di scatole cinesi che permetterebbe all'oligarca di sfuggire a sanzioni imposte dalla Russia. Vabbè, mica scemo. Però intanto inviamo armi. Ironico, per non dire amaro, anche il sistema delle scatole cinesi, che non sia vietato in Italia grazie al decreto legislativo 58 del 1998, noto come legge Draghi. Nonostante in più occasioni qualcuno in Parlamento ci abbia provato, la legge non è mai stata modificata. E a proposito, invitiamo ad andare su peruntracittà.org, dove troverete un articolo proprio a riguardo questa questione. E se vuoi proseguo io, cara dama. Vai con Campi Bisenzio. Andiamo con Campi Bisenzio, il 26 aprile l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha sospeso l'attività del Pronto Moda di via Cecerina numero 4 a Campi Bisenzio, dove la scorsa settimana venivano licenziati via WhatsApp 5 operai che avevano osato richiedere di lavorare 8 ore e non più 12 ed un giorno di riposo per la Pasquetta. Quante pretese. Quindi a tal proposito il sindacato di Sicobas è uscito con un comunicato che ora proviamo ad andarvi a leggere, magari sintetizzando un pochino, quindi non prendetevela se sbagliamo qualcosa o se delle frasi non hanno senso. Comunque questo comunicato dice: hanno lavorato per 12 anni 12 ore al giorno. Ho sbagliato subito. Un giorno di riposo. Hanno lavorato per anni, 12 ore al giorno, senza un giorno di riposo. Niente ferie, niente malattie pagate, niente diritti. Il giorno di Pasquetta, festività nazionale, si sono rifiutati di lavorare. Il loro padrone li ha licenziati tutti con un messaggio WhatsApp. Se non venite oggi, siete fuori per sempre. Già visto il messaggio WhatsApp. Nei giorni precedenti avevano richiesto di lavorare anche loro 8 ore per 5 giorni. Come sempre, più operai, grazie agli scioperi di questi anni, lavorano nel distretto. E la risposta è arrivata con un altro messaggio WhatsApp. Se volete lavorare 8 ore, trovate lavoro da un'altra parte. Quindi è questa la storia di 5 operai di una confezione di via Carcerina numero 4 a Campi Bisenzio. Il nome della ditta? Impossibile da dire. Negli anni diversi nomi e partite IVA hanno nascosto sempre lo stesso padrone. La vecchia storia del apri, chiudi e riapri per aggirare fisco e diritti. Quindi oggi nello stesso stabilimento ci sono lavoratori formalmente dipendenti di ditte diverse. La Feng Shongqing, la Hu Jingkong, e al di là di questo i contratti sono solo carta straccia. C'è chi lavora da 3 anni con contratto a tempo determinato, part time a 20 o 30 ore settimanali, e nella realtà le ore settimanali di lavoro sono 84, pagate 1000 euro. Che nei mesi di calo di lavoro diventano 500 euro, ma a parità di ore. E, i diritti del contratto collettivo nazionale del lavoro esistono solo sulla carta. E quindi il 23 aprile c'è stato il primo presidio sindacale davanti all'azienda, e un video ritrae la titolare urlare e poi aggredire a spinte lavoratori sindacalisti. Nessuno risponde alla provocazione, allora la donna incinta si aggrappa ad un manifestante e poi si butta a terra simulando un'inesistente aggressione nei suoi confronti. La scena è patetica, ridicola e grottesca. Cosa volevo dirlo io? No, ci sta. Vero? Vero, ma significativa. Perché scene di questo tipo, in questi anni di sindacato vissuto davanti ai cancelli delle fabbriche del super sfruttamento, ne sono successe a decine, se non centinaia. Continua il comunicato dei Sicobas. Si provoca, si simula e poi si piange davanti alle telecamere, oppure arriva una squadretta per menar forte. Magari con tirapugni, mattoni o mazze da baseball, come è già successo alla Gruccia Creation. In quel caso si accusava gli scioperanti di aver aggredito una bambina addirittura. E poi alla TechSprint, che prima di spaccare le ossa agli operai che scioperavano per mesi, aveva interpretato ad arte il ruolo delle vittime. In ultimo la Dreamland. Sì, perché questi imprenditori, fra virgolette, che da anni fanno profitto sul super sfruttamento nella quasi completa impunità, sono pronti a trasformarsi in vittime appena un operaio richiede i propri diritti. La vecchia storia, e i cattivi diventano quegli altri, quelli che scioperano e soprattutto i Sicobas. L'imprenditore invece diventa un agnellino indifeso da proteggere con la polizia che manganella gli operai, tra l'altro. Quindi tra qualche settimana riceveremo una denuncia anche per questa fantomatica aggressione, e ci sarà anche stavolta qualche giornale che scriverà degli intollerabili metodi violenti del Sicobas, in questo caso aggredire una donna incinta. E tutti, soprattutto certa politica, avrà una buona scusa anche questa volta per girarsi dall'altra parte e non affrontare il vero problema di questo territorio: la violenza quotidiana del super sfruttamento che subiscono migliaia di operai. Il comunicato conclude dicendo che non lasceremo che vada così e invitiamo tutti ad essere con noi, perché sabato torneremo davanti allo stabilimento di via Carcerina per scioperare e manifestare dalla parte degli operai che non vogliono più essere schiavi. E l'ultimo invito invece è di unirsi il 1° maggio, perché i Sicobas Prato e Firenze chiama alla mobilitazione per una manifestazione a Prato, con un corteo che partirà dalle ore 16 dai giardini Carlo Marx. Quindi sabato un presidio davanti allo stabilimento per in solidarietà agli operai coinvolti in questa faccenda, e comunque il 1° maggio, giornata di lotta, i Sicobas faranno un corteo dalle 16 a Prato ai giardini di Carlo Marx. Alziamo posto tappetino che... e torniamo a Firenze. Non chiamatela tassa. Firenze, 27 aprile 2022. Coro di sì compatto dagli attori economici della città. Critiche dal centrodestra. Questo, in molta sintesi, il quadro delle reazioni istituzionali all'idea lanciata dal sindaco Nardellone attraverso le colonne della Nazione, del World Heritage Pass, sigla scelta in nome della conservazione del nostro patrimonio UNESCO, ovvero un pagamento volontario, una sorta di donazione dal prezzo simbolico di un caffè che i turisti potranno effettuare anche semplicemente tramite smartphone per contribuire al mantenimento del decoro dell'area monumentale fiorentina, che costa al comune 50 milioni di euro l'anno e che, come sottolineano dal primo cittadino, che come sottolineato dal primo cittadino, la tassa di soggiorno riesce solo in parte a coprire. Quindi tassa più tassa, mettiamo altre tasse. Non siamo ostili a coinvolgere i turisti nella compartecipazione alla salvaguardia della città, premette Franco Marinoni, direttore della Confcommercio Toscana, a patto che si aggiunge si rispettino almeno 3 paletti. Quali sono questi 3 paletti? La volontarietà della donazione, che non dovrà apparire come un'ulteriore tassa, un corrispettivo in modo che si dia qualcosa in cambio dell'obolo, per esempio l'accesso preferenziale a mostre e musei o qualche gadget di livello, e infine la finalizzazione degli introiti alla valorizzazione del patrimonio e comunque al sostegno delle politiche del turismo. Di sicuro, puntualizza Marinoni, l'atteggiamento depredatorio nei confronti dei turisti non paga più. Anzi, è il motivo per cui l'aggettivo turistico ha assunto nel tempo una connotazione tanto negativa. Per riscattarlo, dobbiamo crescere nella qualità dell'offerta e dei servizi di accoglienza. Per il presidente di Confartigianato, Alessandro Soriani, le donazioni dovrebbero servire sì per la manutenzione del patrimonio UNESCO, ma anche per il sostegno delle attività artigiane che rendono celebre Firenze nel mondo. Perché, puntualizza, senza attività una città rischia di morire. La scommessa è quella di riuscire a far convivere i grandi flussi turistici, i fragili centri storici della città d'arte. Ma oserei dire una scommessa persa in partenza, ma... Beh, l'estrattivismo turistico non mi sembra venga preso in considerazione. Insomma, tante belle parole, ma alla fine la città continua ad andare verso la direzione delle spremiture... Dello spremiturista dello spremiturista. Se sei molto ricco, in omaggio a un antico palazzo a prezzo stracciato, facciamo promozione, vieni a Firenze. Se riesci a finanziare un bellissimo palazzo stracciato, allora ti puoi fare le tue vacanze serenamente. Dai. Se così sei un amante della cultura, mancia la lira, statene a casa. Che ci viene a fare? Soprattutto che bello. Se abiti Firenze, vai via, che perché bello, lascia spazio ai ricconi turisti. E sempre ritornando qua nella nostra famosa, favolosa, amata città, parliamo di quello che è successo il 25 aprile a Santo Spirito, dove da tempo in memore vengono ospitati i festeggiamenti del 25 aprile in piazza Santo Spirito, e da altrettanto in memore tempo gli abitanti del luogo bubano e si lamentano questa volta al suono di, aperte le virgolette, qua c'è una cheat molto molto bella che è della portavoce del comitato dei residenti di Santo Spirito. Lo scandaloso 25 aprile alla Basilica di Santo Spirito? Un rave party con tanto di sagrato trasformato in urinatoio, come se le chiese non fossero già, vabbè. E fatto sta che numerosi sono stati i video e gli scatti raccolti dagli abitanti della zona a documentare i comportamenti incivili di decine e decine di persone. Aperte le virgolette di nuovo, sempre Camilla Speranza, non è cambiato niente. Senza cancellate, è sempre lo stesso scempio dissacrante, che aggiunge: occorre che la Basilica Monumentale di Santo Spirito, capolavoro brunelleschiano, sito UNESCO, venga preservata 24 ore su 24, come abbiamo più volte sottolineato, poiché è evidente e evidentemente impossibile proteggerla con le forze dell'ordine. Quindi occorre delimitare tutto il perimetro delle scalinate della chiesa con una cancellata. Sbarre. Sempre questa cara Camilla Speranza, che magari troveremo pure l'indirizzo di casa sua, dice: le manifestazioni non possono avere luogo su un luogo sacro. Facciate, sagrato e abside non sono e non devono essere scambiate per una toilette. E ci domandiamo come mai a Firenze si continui a permettere di violentare Santo Spirito. Parole forti, quindi nelle immagini si notano diversi ragazzi nascondersi dietro le auto per fare i propri bisogni sul selciato e i muri della chiesa. Scene in realtà viste e riviste in piazza Santo Spirito, così come sono dei déjà vu anche le foto ai cassonetti strapieni di cartoni di pizza, bottiglie di vetro, bicchieri di plastica, insomma il classico degrado a cui siamo abituati, e nei video invece i balli, gli schiamazzi andati avanti sul sagrato fino almeno alle 2. Basterebbe poco per risolvere parzialmente i disagi. Bagni pubblici gratuiti, cestini della differenziata in numero e posizione adeguata, uno dei pochi posti di ritrovo e socialità ancora esistenti nella città UNESCO, che però il sindaco vuole dire fiorentino e non, se non hai soldi da spendere non uscire. Questo trafiletto dice che alla fine è meglio non risolvere nulla per semplicemente poter mettere più telecamere e pulizia, in questo caso anche delle belle cancellate, anzi pare esserci una nuova soluzione che si chiama Stuart, con questo bellissimo nome, lo Stuart de Movida. Ma che vuol dire? Stuart e Movida, lo ritroviamo qua sotto. Ehi. Tra i punti forti delle misure messe a punto per affrontare il problema tornato quest'anno dagli steward urbani in anti-malamovida. Malamovida, che bel neologismo. Malamovida. Per rafforzare il controllo nelle aree cittadine dove si concentra maggiormente la vita notturna. Un lavoro di squadra per arrivare alla firma di un protocollo d'intesa per la gestione partecipata della movida, che sarà sottoscritto a giorni in prefettura dal sindaco Nardella. Il questore, il comandante dei carabinieri, il comandante della guardia di finanza, il presidente della camera di commercio e tutte le associazioni di categoria. Ma il presidente della camera di commercio era quello di prima che diceva no, che i turisti se li tassiamo poi ci rovinano comunque il centro, dobbiamo trovare quel sottile equilibrio. Il punto è movida, turisti eccetera, l'importante è che abbiano i soldi, perché sicuramente quelli che hanno i soldi non pisciano sui muri. Giusto. Questo non si sa come, ma è dato per assodato. Beh, se vuoi leggo io questo trafiletto. Per l'attività degli steward con la W in campo ci sono 70.000 euro, quindi 35.000 sono quelli messi a disposizione dal buon comune, mentre all'altra metà invece penserà la camera di commercio, sempre loro. Si tratta di personale altamente qualificato, opportunamente formato, che svolgerà funzioni prevalentemente di informazione sul decoro e sui comportamenti vietati, anche con lo scopo di prevenire e contenere l'inquinamento acustico, che vuol dire tutto e niente. La novità di quest'anno è che gli steward avranno come punto di riferimento per la loro attività non i singoli locali, ma il coordinamento interforze che è stato messo in campo per fronteggiare la malamovida. Quindi udite, in questo protocollo che sta per essere firmato sono già state individuate le aree più critiche, e anche quelle dove gli steward muniti di pettorino di riconoscimento, mentre gli sbirri no, saranno chiamati a svolgere la loro azione. Bellissimo, no? Questo coordinamento steward e sbirri veri, simpatico. Si tratta insomma dell'area di Sant'Ambrogio, da Borgo alla Croce, via Pietrapiana, piazza dei Ciompi, piazza Sant'Ambrogio, piazza Ghiberti, compresa piazza Annigoni. E poi c'è tutta la zona di Santa Croce, via dei Benci, via Verdi, piazza Santa Croce, Borgo Pinti fino a piazza Salvemini, e riflettori puntati anche sull'area di piazza della Repubblica, via Pellicceria fino a piazza Strozzi, e con particolare attenzione, ripetiamolo, a piazza Santo Spirito e via Sant'Agostino. Lascio a te, Dama, l'ultimo. In ogni trafiletto. Caso non si tratta di aree fisse, ma secondo le valutazioni che di volta in volta saranno fatte dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, l'attività degli steward potrà essere orientata a seconda di specifiche necessità, anche in rotazione, quindi aspettiamoceli in ogni angolo. Okay. I steward saranno attivi nei fine settimana, a partire dal prossimo fine settimana, quindi magari mandateci a Radio Wombat foto e segnalazioni degli avvistamenti steward. Di questi steward. L'ultimo di aprile nelle serate di venerdì e sabato nella fascia oraria fra le 22.30 e le 2.30. Quindi se dovete concentrarvi a fare casino, fatelo prima delle 20. Alle 2.31. O alle 2.31, cioè lasciamoci questo vuoto. Il loro lavoro proseguirà nei mesi di maggio, giugno e luglio, fino a settembre, per un numero di 30 serate complessive. Bravi. Non solo, l'attività sarà utilizzata a maggior presidio anche durante la realizzazione e lo svolgimento di eventi aperti al pubblico, per esempio durante gli eventi dell'estate fiorentina. Nei prossimi giorni saranno messi a punto gli ultimi dettagli. In ogni caso, gli steward chiamati a tenere d'occhio l'estate non dovranno essere meno di 24, in modo da assicurare una presenza valida nelle principali strade e piazze della movida. Si sa che 24 è un numero veramente valido e niente, cioè che... Chissà come l'hanno partorito 24, cosa? Sarei molto curiosa. Non si sa come commentare questa notizia, avevamo proprio bisogno di più sbirri in giro. Veramente alziamo un secondo sto tappetino per riprenderci da questa, non si sa se ridere o se piangere, e poi finiamo sto GR. Allora finiamo questo GR invitandovi a visitare il sito di chiariatira.it, che è la rete territoriale low cost di centraline per il monitoraggio della qualità dell'aria. Noi non abbiamo aperto il sito, quindi non vi diremo che com'è la qualità dell'aria su Firenze, andateci voi. E comunque noi siamo in diretta su Wombat, però oggi o tutti i giorni, quasi tutti i giorni, diciamo da lunedì al venerdì, potete ascoltare a reti, a canali unificati, lo stesso GR da Radio Spore, Radiogramma, Radio Forte, Radio Wombat, che va in diretta appunto 5 giorni alla settimana. E quindi continuate a seguire i palinsesti di queste fantastiche radio e della bellissima ciurma pirata. E vogliamo solamente ricordarvi che oggi il palinsesto di Radio Wombat prevede alle 14.30 Radio Contado, per cui magari Dama andiamo a mangiare qualcosa che dobbiamo tornare, che fra mezz'ora ci siamo di nuovo noi, ci siamo sempre noi per altre due ore. E poi dovrebbe esserci la diretta di Buongiorno Palestina, a meno che non l'abbiano fatta la settimana scorsa, che anche loro vanno in diretta ogni due settimane. Insomma, per Wombat le dirette di oggi si chiuderanno appunto alle 7 di sera. E, però niente, continuate ad ascoltare, ad ascoltarci. E il GR di Wombat finisce qui e noi probabilmente ci risentiamo la prossima settimana, sempre col GR, ma noi Dame Reverendo tra mezz'ora, anzi 29 minuti. Ciao a tutti. Dai, è tardissimo. Restate sul Wombat.